Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quando lei sarà lì, che sarà un po' più anziano, diciamo, comincerà a capire tutte le stronzate che ha detto e si vergognerà delle stronzate che ha detto alla radio. Lei è un insultatore, lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Si vergogni, si vergogni, si vergogni. Cruciani, vai a fanculo, Lara. Sei un gran testa di cazzo, Lara. Sei un bastardo dentro, sei un cretino. Bastardo, razzista di merda, adesso ormai sei pronto a fare il vice di Salvini alla Lega Nord. Che cazzo vuoi, bastardo, che sei altro? Ma vai a fare il culo, ma vai a fare il culo, ma vai a culo, culo, culo, culo. Ma vai a fare il culo, ma vai a fare il culo, ma vai a fare il culo, culo, culo, culo, culo. Bastardo che sei, Cruciani. Porca puttana, ma questo è pazzo, guarda. Buone notizie, ogni tanto delle buone notizie diamo, Parenzo. Caro David, ogni tanto diamo delle buone notizie. Comune di Montemarciano, Montemarciano, era stato punito e multato un cliente di una prostituta. Noi abbiamo sempre queste notizie che vengono dal mondo della prostituzione, praticamente. Dal mondo della strada, dal mondo della strada. Allora, 546 euro era la è stata annullata. Il giudice di pace ha cancellato la multa data questa volta, no, al cliente, scusate, alla prostituta. Alla prostituta, capito? Beh, con quale motivazione? Ragazzi, non mi interessa. Di fronte alle azioni antiliberali, contro la vostra libertà, contro il vostro diritto ad andare a prostitute, bisogna fare tutto il necessario, anche andare da un giudice di pace. Lo so che è una rottura di coglioni, lo so che bisogna spendere dei soldi, bisogna fare di tutto per fare una grande battaglia. Ma quale battaglia? La battaglia che devi fare contro lo sfruttamento della donna. Ma quello non me ne frega niente, quello lo fa la polizia, non me ne frega nulla. Libertà di prostituzione e libertà di andare a puttane, sempre. Allora, Librandi ieri da noi, sentiamo Librandi sulla questione Rom, eccetera, eccetera. Librandi è fuori di testa per me completamente. Tu gli vuoi dare una medaglia al signor Librandi? No, mi pare che sia un politico che sostiene delle cose che sono apparentemente impopolari, ma che risiedono nel vero cuore dell'Italia. Ma quale vero cuore dell'Italia? Perché... Hai detto anche Librandi è il cuore, è l'Italia vera, quella di Librandi. È l'Italia vera, l'Italia migliore, l'Italia delle organizzazioni non governative, l'Italia... Ma che cazzo dici? Ma sei impazzito? L'Italia sentiamo Librandi. Chiede, ma che dà? Della fu sciolta civica. Sciolta civica, questo è vero però. La sensibilità, la masseria va sgomberata subito. Sono i documenti della masseria. Bisogna vedere i documenti della masseria. Certo, ma lei non si vergogna di quello che dice? No, quelli hanno occupato una masseria di un'altra persona. E lei chi è il difensore di quelli che ereditano le masserie? La masseria c'ha la legge che lo difende. No, non lo difende, non lo difende lo Stato. Nessuno lo difende, vuol dire che c'è qualcosa che non può. Ci sono dei Roma che hanno occupato una masseria illegalmente. Chi se ne frega? Chi sei arrivato lì prendi? Chi se ne frega? Guarda che è incredibile. È pazzesco. Il difensore dei Roma abbiamo. Certo. Difensore dei Roma. Li assuma lei un paio di Roma. Ma certo, assolutamente. Vediamo. Comune dove abito io, a Saronno. Ci sono diversi Roma che lavorano nel comune. Yeah. ragazzi, queste sono alcune perle. A un certo punto ha detto che i rom sono deboli, oltre ad aver detto che sono poveri, e non so se sono davvero poveri i rom, anzi sicuramente non lo sono. Dice: i rom sono deboli. Ma dove cazzo l'ha vista mai questa cosa, che i rom sono deboli? Non è vero. Sono bersagliati. Ma quale bersagliati? Sono ma, bersagliati, ma che sono bersagliati? Oggetto di una campagna etnica. Ma quale campagna ancora? Una campagna etnica, per cui si dice: solo rom. Tu e la Pavlovic siete in grado di dire questa cosa qua, dai, su. I rom, no, ah. Sono le persone che commettono reati, i singoli. Non le categorie. Bisogna cercare di aiutarsi. Scusi un attimo, lei al posto di quello, al posto... I rom sono delle persone deboli. Deboli. Ha capito? Deboli. Sì, deboli. Just a darker form of... Secondo Librandi, a Budrio il signore che è stato ucciso doveva alzare le mani. Io gli davo tutti i soldi dell'incasso e poi avrei chiamato appena possibile le forze dell'ordine. Cioè, lei questo dice che fatto. Il signore del bar di Budrio, con tutto rispetto ovviamente per la famiglia, sì, questo certo. Lo stiamo dicendo, avrebbe dovuto fare che cosa? Alzare le mani, cosa? Fate le mani. Bisogna dedicare le piazze a Monti. Diciamo che Monti è così un titano dell'economia, un che titano. Nel suo caso è giusto. È giusto avere senatore a vita, sì, benissimo, perché no, ci ha detto fatto tutto. Risparmiare miliardi, capisce? Bene, non ha ma... lei purtroppo bisogna che ci troviamo a un bar con un caffè e spiegherò come, perché. E dopo lei dirà: non a vita, gli daremo anche a che cosa? Oltre la vita. Cioè se secondo lei va, il Nobel va dato a Monti? No, gli intitoleremo delle piazze a delle Monti. Anche la Fornero va fatta senatrice a vita, secondo Librandi. Perché non la Fornero? Anche la Fornero vanno date delle tasse, delle piazze. Senatrice a vita, bravissimo. La Fornero. Ma perché non il Nobel? Perché non il Nobel? Ci sono stati premi Nobel Rom, mai visto un leghista sì, col Nobel. Anche questo è ma vero. Che cazzo vuol dire? Ma è ridicolo, dai. Ma è vero però. Ma dai. Lei lo sa che i Rom sono stati anche premio Nobel? Cioè sono ma stati cosa tanti. C'entra? Ma cosa c'entra? Un leghista premio Nobel, non lo bravo, sa, visto giusto, che le difende giusto, tanti. Ma io non difendo nessuno, giusto, ma lei è fuori di testa, sta dicendo delle cose senza senso. Con una grande sensibilità. Vabbè, lasciamo parlare le persone normali come Lorenza Tulli, una tabaccaia, una barista di Castelfranco Veneto, derubata 30 volte. Signora Lorenza Tulli, altro che Librandi avanti. Che dice che l'Italia è più sicura, che i crimini avanti, sono diminuiti. Avanti, puttanate. Quando ho sentito di quanto è successo a Budrio, Allora, non ho pensato a niente. Ho detto, eccolo, si è riverificato. Lo sapevo. Lei ha detto, io mi armo. Sì, io mi armo. Mi armo. Determinata, deciso. Ho deciso. Non si torna più indietro. Non si torna più indietro. A me non interessa lasciare alle mie nipoti il denaro. Interessa lasciare una sorta di civiltà, e per combattere l'inciviltà devo usare quello che finora ho ritenuto incivile, l'arma. Hai visto il titolo di Libero di oggi? Voglia di sparare. Sì, l'ho visto. Voglia di sparare. Ma la voglia di sparare ce l'hanno loro, di sparare anche delle minchiate micidiali. Questa è la voglia. E no, amico mio, mi dispiace dovertelo dire. A proposito di minchiate. Allora, è ricomparso ormai in tutta la sua forza, in tutte le sue cazzate pazzesche, l'animalista Vassallo. Il quale è quello che ti minacciò, quello che diceva io ero un pedofilo, eccetera. Signor Vassallo, sì, però su questo sai poco no, male. Vabbè, no? Amico mio, no, poco male un cazzo. Poco male un cazzo. Pedofilo. Vabbè, dai, ma sono cosette che si dicono, no? Ma no, ho sentito una minchia. Ma ha detto pedofilo. No, ma senti, va nelle scuole, dice: vuoi drogarti? Sì. Fatti anche... nelle scuole. Sì, va nelle scuole. C'è uno che, tra l'altro, ha un processo per stalking. Va nelle scuole a insegnare l'animalismo, in pratica, a dare lezioni di animalismo. Ma non so a che titolo, infatti. Non riesco a capire a che titolo. Comunque va e dice: se vuoi drogarti ti puoi anche drogare, fatti anche un overdose, ma non uccidere gli animali. Ma tu ti rendi conto o no? Vabbè, è un bel insegnamento. Senti. Se vuoi guidare in macchina a 200 all'ora in una strada isolata dove non ammazzi nessuno, senza cinture, puoi schiantarti, ma fallo, sei libero di fare quello che vuoi. Vuoi drogarti, ma fatti 100.000 overdosi, chi se ne frega, ma non devi uccidere animali. Dal momento che tu uccidi un animale, sei un assassino, sei colpevole, togli una vita e devi essere combattuto da stupidi come me. Quando è che chiudete, cornuti? Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. I rom sono deboli, li brandi, fai schifo. Non bisogna bruciare i rom, bisogna bruciar te. Fino adesso pensavo che era Parenzo il più stronzo che era passato per la vostra trasmissione. Invece Librandi lo batte alla grandissima. Siamo allo stronzo top. Parenzo, tu e Librandi vi auguro di morire ammazzati da due rapinatori. A tutte e due. E a tutti quelli che la pensano come voi. Hai capito? Hai capito? E mi piacerebbe dirtelo in faccia, ma neanche alla radio. Faccia a faccia. Mi piacerebbe dirtelo. My girl. Allora andiamo a, in provincia di Bologna, vai, iniziamo. Vittorio, Vittorio. Buonasera, buonasera. Dimmi. Sapete una cosa? Più che altro, Parenzo non l'ho mai sentito parlare a proposito delle donne che per ottenere sesso alla fine si comportano sostanzialmente come i puttanieri. Cioè in che senso, scusami? Nel senso che, allora, se tu vai in un qualsiasi locale, soprattutto il mio, soprattutto quello che rientra nel mio range d'età, under 30, no? È normale vedere un sacco di ragazze che sono sbronzissime, no? Che sono lì apposta per far la gara di chi succhia più cazzi. No, beh, aspetta, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo molto calmi. Cosa vuoi dire? Non ho capito. Vittorio, che cosa ce ne frega a noi di sapere che nei locali dove vai tu ci sono donne, diciamo, disponibili? Che ce ne frega a noi? Che ce ne frega a noi? Cosa ce ne frega a noi sapere che nei locali dove vai ci sono donne disponibili o uomini disponibili? Che è la stessa cosa, perché tu fai una differenza tra le donne disponibili e gli uomini disponibili. Invece pensa che lei è la stessa cosa, perché io voglio sapere che cosa pensa Parenzo riparto, dato che pensa a etichettare come miserabili puttanieri. Parenzo pensa che lei, Parenzo pensa sinceramente che lei sia un cretino, in particolare un maiale, un pervertito anche, perché frequenta quei posti là. Ma poi no, sono che posti? Magari sono posti normali. Lei mi ha chiesto un parere, io glielo dico. Io penso che lei sia veramente un cretino, ma proprio un cretino di proporzioni enormi, enormi, enormi. Poi non ho capito che cosa vuoi sapere sulle donne. Cosa vuoi sapere? No, ma allora, quello che volevo chiedere a Parenzo sostanzialmente, eccomi, no? Cosa pensa lui di quelle donne che... Quali? Quali donne? Quali donne, Vittorio? Non sai nulla, non sai dire nulla. Ma non sai dire nulla. No, ho detto, se tu vai nei locali trovi delle ragazze... Ma nei locali quali? Stai generalizzando, esistono miliardi di locali, cretino. Ma idiota sarai tu, idiota. Di cazzo che non sei altro. Ma va, imbecille. Se fai finta di non capire, se no... Vai nelle discoteche e trovi donne disponibili. E se ci sono donne disponibili, ci sono anche uomini disponibili, no? Certo, e allora qual è il problema se le due disponibilità si incontrano? Io volevo chiedere a Parenzo che cosa pensa delle donne che si comportano alla stregua alla stregua ieri, che secondo me ma non è nemmeno una domanda. Ma è il nulla. Sì, ma se tu non capisci l'italiano, no, ma sei tu che non ti esprimi bene. Che poverino, c'è la testa, poverino, è andata ormai. C'è il cervello completamente in pappa. È il cervello completamente in pappa. C'è il cervello in pappa, sì. Io totalmente in pappa. Ma per me lei, ma di cosa stai parlando? Ma di cosa parli? non sai spiegare l'argomento, non sai nulla, non sai niente. Quanto hai pippato, Cruciani, oggi? Io non pippo. No, non pippi? No, non pippo, non ho mai pippato in vita mia. No, no, la faccia un po' da cocainomane ce l'hai. La faccia da cocainomane me lo dicono tutti, ma siccome tu ti fermi al primo passo, ti fermi alla prima impressione, essendo un imbecille e avendo le pigne in testa. Io un po' ti seguo da anzi. Anche gli altri debosciati dalla porta della zanzara. Vittorio, il punto fondamentale è questo: lasciamo perdere la cocaina, che io non ho mai visto in vita mia. Forse l'hai vista tu, dato che ce l'hai sulla bocca. Sai che io ho conosciuto una volta. Ho conosciuto una volta uno, David, che mi diceva che la cocaina se la mangiava per quanta ne se ne faceva. Sì, se la mangiava. Mamma mia. Sì, amico mio, incredibile. Ha fatto un racconto pazzesco. Io ogni tanto me la mangiavo. E dunque, adesso che sono in cura. No, sento il sapore ancora in bocca, una cosa tremenda. Mi ha raccontato tutta la sua vicenda, eccetera. Dice: io la cocaina me la mangiavo e adesso che mi manca, sento il sapore in bocca. Così faceva, capito? Per questo la gente dice che sono cocainomano. Ma Vittorio non capisce un cazzo. Perché ma questo ti eccita, secondo me. Ma non mi eccita per niente, perché non so di cosa si tratta. È una paura terribile. Comunque, Vittorio, tu non hai fatto una domanda, non hai fatto nulla. No, hai parlato di donne disponibili e non ce ne frega niente. Di che cosa? Io ho detto che le donne, certe donne, non tutte, solo certe donne, si comportano nella stessa maniera. Ma no, ma che scoperta! Ma che grande scoperta! Ma che scoperta! Ma cosa c'entra? Parenzo parla di puttanieri quando parla di persone che vanno a prostitute, cretino, imbecille, non c'entra nulla con le persone che vanno a fare sesso senza pagamento di denaro. Cretino, imbecille, hai le pigne in testa, Paolo da Caserta. Paolo da Caserta, Paolo. Buonasera, signor Cruciani. Bisogna iniziare così, stasera, prendere la carica. Signor Cruciani, ci sei? Sì, dimmi Paolo, dimmi. Ti devo dire due cose. Prima, che due giorni fa ho piantato i semi per la marijuana calabrese. Poi, ancora con questa marijuana calabrese. Sento un attimo, ma come mai ha preso questa piega razzista? Ma devo cambiare la Lega? Razzista sarai tu, innanzitutto. No, fermati un attimo, Cruciani. Razzista sarai tu. Hai anche superato Belpietro. Belpietro, quello no, amico mio, quello è inarrivabile da quel punto di vista. No, non l'hai superato, ma forse, secondo me, davvero, tu vuoi... Visto che in questa tua radio l'ascoltiamo tutti questi malati di pazzi, ascoltiamo la tua radio. Tu però stai buttando più sul populismo razzista da candidato alla Lega. Come sì, mai? Sì, sicuro, guarda. Come no? Per fortuna che meno male che c'è Parenzo che ogni tanto ti ferma. Sta andando sempre contro i zingari, contro quello che ha sparato. Ma dimmi una cosa. Si chiamano zingari ogni tanto, gli zingari. Ma non è sbagliato chiamarli zingari. Ci vengono adesso, dopo che tutte queste cose il politico corretto sbaglia, che dice che non bisogna chiamarli zingari. Ma che chiami zingari? Io da che sono cresciuto lo chiamate sempre zingari. Rispettandolo però, temendoli, precisiamo. Ma che mestiere fai tu, Paolo? Che mestiere fai tu? Il pescivendolo, sì, mio nonno fa il pescivendolo. Tu lavori, ma perché non mi credi, Cruciani? Ma fammi capire, perché non mi credi? Perché l'altra volta pure tu non ti credo, non ti credo, non ti credo. Non mi credi. Anzi, ti mando a fare in culo e chiamo Luca da Bologna. Luca. Va in culo tu, Parenzo. Ciao. Luca, veramente sono Cruciani. Comunque, Luca. Ciao, buonasera, ciao. Ascolta, io volevo dirvi che volevo portarvi la mia esperienza sul tema delle rapine a Bologna. Dicembre, il 4 di dicembre alle 4:30 del pomeriggio, due slavi sono entrati, non perché fossero slavi, ma erano slavi veramente, sono entrati in negozio da mio padre, 76 anni, hanno tirato giù la serranda. Lui ha detto: non fatemi nulla, vi do le chiavi, vi do tutto, un antiquario. Loro l'hanno preso, gli hanno dato un colpo di pistola sulla nuca e l'hanno picchiato per mezz'ora. Era irriconoscibile, sette placche al titanio, un occhio perso, mai più trovati, sanno chi sono, nome, cognome, DNA, perché... Sei favorevole all'uso delle armi? Io non lo ero, però per adesso purtroppo temo che non ci siano più alternative. Luca, un attimo, fermo lì. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. Avvinitali Padiglione 3, trentodoc.com. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Lei è un insultatore. signore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Si vergogni, si dimetta dalla posizione che ha. Io non so come fanno a tenerla lì, hai capito? Veramente. Luciani, ma mandalo a fanculo sto cornuto. David, David, ma perché? Perché sei tu, David? Tu sei tutto quello che le donne vogliono, un uomo fedele, un uomo di famiglia. Oh, David, ti prego, vieni da me. Questa era una dedica della signora del sì. Bufalo, bravo, della signora bravo. Del Bufalo a David bravo. Parenzo, vi rendete bravo. Conto? Sì, del Bufalo. Cioè, ti rendi conto di come ti trattano qualche volta? Ti trattano come un peluche, l'ottimo. Ti trattano, beh, ti sì. trattano come un soprammobile, sì, no, una soprammobile persona da prendere tu. Per il culo. Un soprammobile sei tu. Cioè, ti trattano come, come sì. un panda, come un peluche, come, sì, un, come sei buono, come bellissimo. Sei e sì. sei tutto quello che una donna vorrebbe, sì. che quando sì. uno lo dice è esattamente il contrario. Esattamente il contrario, sempre, sempre. Naturalmente, naturalmente. Allora, io non volevo tornare a parlare di un signore che si chiama Del Genio. Chi è questo? Un signore di Napoli, dove sei tu peraltro, perché Davide è a Napoli. Sì. Di un signore che si chiama Del Genio. C'è la polizia qua fuori, quindi fai tu. Che non è, che è la polizia? Come la polizia? Polizia scusa. Qua fuori dall'albergo. Vabbè, ma non perché sei a Napoli, dai, su. Siamo no. a Napoli, tranquillamente vicino a due passi dallo stadio, peraltro, che vedo qui. Sarà per quello, sarà per quello. Sì, figurati, tutto sarà posto. Per quello. Tutto tranquillo. Napoli è una città perfetta, mi pare anche molto in ordine per il resto. Ma molto. Sì, ma se ne andato... Un'ora ci ho messo dalla stazione, un'ora, un'ora per fare pochi chilometri, un'ora. Vabbè, quello però tutte le città è così, dai, adesso non tirare addosso a Napoli per il traffico. Ma iamo a lavorare, iamo a faticare. Allora, del genio, un signore che di genio secondo me ha poco, però a me che me ne frega di stare a polemizzare con il nulla. Perché devo polemizzare con il nulla? Cioè, questo che mi... Però ogni tanto mi parte così la polemica, no? Allora, questo del genio, la cosa che mi fa impazzire è che va nelle trasmissioni a dire, per esempio, che io sarei la rovina del giornalismo. Ma magari fosse così, cioè magari avessi la facoltà, come dire, la possibilità di distruggere, il giornalismo. Ma non è così, sono la rovina del genio. Ma perché dici queste banalità, queste minchiate? Vabbè, è vero, non è genio, non è un genio, dunque è normale. Io penso che alcuni personaggi in questione, faccio il nome, Cruciani, sia veramente la rovina del giornalismo. Personaggi che fanno giornalismo in quel modo rovinano agli occhi della gente il mestiere. Se oggi la nostra categoria è così mal considerata da molte persone, perché ci sono quelli che fanno le trasmissioni telefonando e non dicendo che sei in diretta e tante altre schifezze che secondo me dovrebbero prevedere l'intervento dell'ordine dei giornalisti e la radiazione di persone che si comportano in questo modo. Del genio, ragazzi, sì, del genio, la radio. Ma questo è un cretino. Sì, ma poi, ma che gli interessa a lui? Ma di cosa parla? Ma non di cosa sa... si occupa questo qua? Ma non lo so, lavora in una radio di Napoli, per carità, tutto il rispetto, ma chi se ne frega? Perché... Cioè, ma è una cosa incredibile, infatti. Sarà del genio, ma non è un'aquila, però. No, ma soprattutto uno, lui parla di una cosa, ma non lo segue nessuno. Questo è il punto. Cioè, non dice una cosa del genere, ma passa inosservata. Questo è il punto. Del genio passa inosservato. Totalmente, totalmente. È contro tutte le regole del nostro mestiere, e quindi niente, lui lo può continuare a fare, e tutta la gente lo giudicherà per come lo giudica. Io non replicherò nemmeno a questi suoi insulti, perché il suo obiettivo è metterla in caciara, come dicono loro, far abbassare il livello. Io cerco invece quotidianamente di alzare il livello, quindi. Lui cerca di alzare il livello, eh? Lui cerca di alzare il livello. Ragazzi, siamo veramente alla follia totale. Qui mi scrivono che lui starebbe dicendo, stia insultando. Evidentemente, se mi sta insultando è perché non ha argomenti su di me, perché io sono sempre molto corretto. Quindi lui può ricorrere solamente agli insulti, è perché evidentemente sarò stato bravo, ho colpito nel segno, cioè ho detto una cosa che l'ha colpito e l'ha fatta arrabbiare, perché ho detto che per me dovrebbe intervenire l'ordine e togliergli la possibilità di fare questa cosa che fa, che non si può fare, proprio contro tutte le regole del nostro mestiere. Vabbè. Poveraccio, sarà frustrato. Va bene, dai, Giacomo dalla provincia di Latina, vai. Sì, eccomi qua, sei un grande, ti devo fare i complimenti, è la seconda volta che ti sento come sto. Vabbè, Giacomo, vai. Vabbè, vado in fretta, allora, per quanto sì, ma togli il viva voce, ti prego, dai, auricolare, viva voce, amico mio, dai. Scusami. Dimmi. Allora, ritornando sul discorso dei rom, degli zingari, io anni fa stavo fuori il cancello ad aspettare degli amici miei. Sì, vabbè. Si avvicina una macchina, sì? Uno mi voleva caricare dentro la macchina, io comunque giustamente mi sono difeso, questo mi dà due cazzotti, mi stende per terra, sì? Perdo i sensi, sì. Mi frega il cellulare, sì? Vado a fare la trafila, polizia, eccetera, eccetera. Sai che cosa mi hanno detto i poliziotti? Che se mi dovesse ricapitare una cosa del genere, visto che io abito in campagna, sì, di ammazzarli e sotterrarli. Ma chi l'ha detto questo, scusa? La polizia stessa di Cisterna. La polizia di Cisterna, provincia di Latina, ti avrebbe detto, ti avrebbe consigliato che cosa? Di ammazzare i rom. Sì, sì, perché io comunque ero avvelenato, cioè, ma per fortuna che mi hanno fregato solo il cellulare, quelli mi potevano anche ammazzare per un solo cellulare. Sì, ho capito, ma io dubito che la polizia ti abbia consigliato di ammazzarli. No, io ti dico, ma ti dico che è così, ti dico che è così. Vabbè, allora, uno può dire tutto, ma uno può dire tutto, dai, i poliziotti mi hanno consigliato. Però io sono arrivato al punto, pure con quel discorso che non c'entra niente, il discorso lì di quel povero ragazzo che non l'hanno difeso. Quello di Alatri, poi ci dovremmo iniziare a fare giustizia da soli. A questo punto, che dobbiamo fare? Cioè, spiegami, non ho capito. Gli assassini di quel ragazzo vanno giustiziati in piazza? A questo punto, sì, Cruciani, io la penso a così. Cioè, vanno presi, sottratti alle forze dell'ordine, sottratti magari al carcere, non lo so, e giustiziati, perché tu dici tanto prima o poi escono, giusto? Sì, giustiziati, sì. Giustiziati. Parenzo, rispondi, sì, tu però, rispondi, è inutile che stai ma lì. Ma cosa vuol dire sì? Sono allucinato. Cosa vuol dire sì? Vanno giustiziati, sì, in piazza. Lo dice lui, mica lo dico io. Ma non è che lo dice lui, lo dici tu. Dice una follia, dice una cosa che non lui ha dice, alcun senso. Bisogna farsi giustizia da soli. Ho sentito che cosa ha detto. Bisogna farsi giustizia da soli. Bisogna prendere questo signore, le generalità di questo signore. Ma io ammazzerei proprio pure i genitori di questi qui, no, che hanno fatto le generalità, come la penso io. A prendere il suo documento, perché alle 19:26 competente foro di Roma, adesso credo, basta con questo competente, no, foro Latina, sarà Latina il foro. Scusami, foro di Latina, certo, ci sta di Latina, la foro di Latina. Il foro sarebbe il tribunale. Lei sa tribunale, cos'è il foro? Dio. Il foro sa cos'è? Lo chiama il foro, vabbè. Vabbè, il foro si chiama, però scusi, si chiama, però, foro. Lei, sì. Il foro è quello che anche lei ha in testa. Comunque, lei ha anche un foro, un buco in testa. Poi c'è invece il foro di Latina, che è il foro competente, cioè il tribunale. Ma dici che c'è un buco in testa, ma dimmelo a faccia che c'è un buco in testa, te faccio vedere io come ti faccio finire di parlare. Mi dice un buco in testa. Noto un po' sì, di ha detto che c'hai un buco in testa, ha detto che sì, ha detto che sei. Io ho sentito bene, tu a me non mi dici che c'è un buco in testa, perché dopo io sono io. Lei c'ha una voragine in testa. Una voragine. Guarda, sì. Giusto perché non sta mirando, non dico l'indirizzo di casa mia dove abito, perché però te faccio vedere io a te che cazzo le combino. Ma perché, scusa, perché? Vedo che lei non è un irenico, non è irenico. No, tu te devi mantenere le parole buone, te devi cucinare la bocca. Lei ha un buco in testa, lei ha un buco in testa. Forte. Ci devi pensare 30 secondi. Ma ha detto che c'è un buco in testa, e che è una metafora per dire che in testa non c'è un cazzo, praticamente, non c'è il cervello. Sì, allora, detto... io manco lo conosco e mi devo sentire gli insulti. Vabbè, così. Ma insulti è una ma non è un insulto, è una constatazione, perché se lei chiama e dice che queste persone vanno giustiziate in piazza, lei è un malato mentale, ha capito o no? Come glielo devo allora dire? Lei che cosa farebbe? Sentiamo, lei che cosa farebbe? Ma come l'avevo c'è la giustizia? Ci sono i tribunali, ci sono le leggi, c'è il carcere. Paga, ci siamo stufati dei pagasti stufi dei tribunali, ma ci siamo così. Ci siamo chi stufati? Lei si è stufato, ci siamo chi? Ci siamo. Parli per lei, parli per sé, che è già abbastanza, è già troppo che lei parla per sé, è già un abominio. Ma io dico la verità, è tutta una corruzione qua. Ma quale corruzione? Ma quale corruzione? Che c'entra la corruzione e i soldi? Comunque, no, Giacomo, la realtà è che c'è un buco in testa, così ha detto Parenzo. No, c'è un buco in testa. No, così ha detto... è un disturbato mentale, è evidente. Un disturbato mentale, sì. Disturbato mentale. Giacomo dalla provincia di Latina. Ma ripeti quello Giacomo, che già gli ha Giacomo detto. Dalla... Sono un disturbato mentale. Sì. Così dice Parenzo. Il discorso che diceva Cruciani, tanto per cambiare il discorso di sulle puttane del che c'entra, che dico io viva la fregna, ma che c'entra qua, ciao, vedi ciao. Vedi il livello, vedi? È un cretino, per cambiare discorso. Ciao amico mio, ciao lasciativo Parenzo. e alla defecazio non ci penso. Ma metto a pensare un po', Parenzo, e mi metto a cagare. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il Lavoro. La Zanzara. Cruciani, vergognati! Vergognati! Ha ragione Parenzo e Librandi! Questi poveri deboli rom a combattere tutti i giorni con le porte blindate, con le inferriate! Ma vuoi mettere con il freddo se gare le inferriate che ti si scrapano le mani? E questi allarmi! Basta con questi allarmi! Questi fottutissimi allarmi! I poveri rom deboli che non si intendono di elettronica! Come fanno a manomettere questi allarmi complicatissimi? Basta! Vergogna italiani! Via le grate! Via le porte blindate! Via gli allarmi! Fate entrare questi poveri, carini, deboli rom! Ma mandala a fanculo, va! Fuori dai coglioni! I rom fuori dai coglioni. Cruciani, io ho un'azienda che sgombra rom. Se mi metti in contatto con questo signore di Lecce, ci penso io. Allora, ragazzi, poi dicono, Parenzo, che siamo noi a parlare di sesso, a parlare di cose sconce, il sesso anale, argomento che abbiamo introdotto noi, soprattutto a un livello molto alto da quando abbiamo intervistato la professoressa De Mari. Professoressa De Mari che adesso va in giro per conferenze con un'ascia in mano. Con un'ascia in mano, sì. Perché dice che l'uomo deve essere armato, perché quando un popolo è disarmato ha rinunciato a combattere per la giustizia. Non solo dice stupidaggini sul versante, no, diciamo, attento, che... attento a dire stupidaggini. Poi dice anche che l'uomo virile deve avere il testosterone. Noi invece insegniamo ai figli come essere deboli, dobbiamo poter girare armati. Vabbè, insomma, la professoressa De Mari è andata a una conferenza di un'associazione che tu conosci bene, di Verona, la Christus Rex. L'associazione Christus Rex. È quella del signor Ruggero, quella. Ma non lo so se è del signor Ruggero. Christus comunque Rex. Ragazzi, la realtà è che ormai l'argomento sesso anale è praticamente scoppiato, si è diffuso nelle case di tutti gli italiani e soprattutto viene trattato da ogni organo di stampa, da ogni organo, da ogni mass media, come si dice, no? Per esempio, l'altro giorno sbirciavo tra le pagine del fattoquotidiano.it, che è un organo diretto magistralmente dal professor Peter Gomez, esatto. il quale ospitava una riflessione piuttosto puntuta, piuttosto informata, da parte di un professore, di un sessuologo che si chiama Vincenzo Puppo, sì. Il quale dava quattro consigli, delle banalità assolute secondo me, per il sesso anale. Capito? Quello che è importante, ti giuro, fatto quotidiano. Se non capisco, tu mi stai dicendo che ci vuole una sorta di vademecum ormai. Esatto, il professor Vincenzo Puppo, secondo quello che riferisce il Fatto Quotidiano, non Playboy, sì. Non come si chiama? La Zanzara, o Man, la Superman, no. Hey man, quello che dice sempre. Dice man, sì, sempre, no, così freddi. Quello che man? È importante è sapere come farlo. Ecco i quattro punti fondamentali. Uno dice, cazzo, che sarà mai? E tu leggi delle cose di una banalità assoluta. Senti, il sesso anale non deve essere programmato. Vabbè, ho capito, ma che vuol dire? Beh, è chiaro che non è che uno lo programma. Ogni tanto programmi pure quando sai che quella persona, no, uomo o donna che sia, vuole quella roba lì. Cioè, no, prova piacere in quel tipo di relazione. Vabbè. La seconda cosa, secondo punto del vademecum, Parenzo, si inizia con il dito e poi si passa alla penetrazione. Vabbè, adesso a me però nel dettaglio... No, ma il vademecum è il dettaglio, altrimenti che cos'è il vademecum? Da tole non piace, vademecum, da tole non piace. Si inizia col dito e poi si passa... Anche qui, amici miei, ma è chiaro che è così. Ma chi è quello che passa subito alla penetrazione? Terzo punto del vademecum. Ma per te è tutto chiaro, per te ma è naturalmente, dai, su. Ma magari... La dilatazione dell'ano va ottenuta lentamente. Sì. Vabbè, ho capito, d'accordo, per carità, va bene, però magari succede anche che qualcuno o qualcuna vuole sottoporsi ad un trattamento di brutale, no? Vabbè, quarto punto e ultimo, così, come dire, ti tolgo dall'imbarazzo, caro Davide. La dilatazione dell'ano, questo è scritto sul Fatto Quotidiano, no, cioè, no, ma perché, dai, sul Fatto ripeto, Quotidiano. Allora, la dilatazione dell'ano va di pari passo con la stimolazione clitoridea. Cioè a dire, se uno vuole fare bene questa pratica, cioè a dire, guarda come spiega nel dettaglio, cioè a dire, se uno vuole fare bene questa pratica sessuale, praticamente insieme alla penetrazionale ci vuole la stimolazione clitoridea. Sì. Anche qui, amici miei del Fatto Quotidiano, caro professor Pupo, siamo francamente all'ABC. Siamo francamente all'ABC. E dice, arrivate tardi. No, però va bene, per carità, può essere utile per qualcuno, però mi sembra veramente una cosa ridicola. Paolo da Bergamo, dai Paolo. Volevo intervenire riguardo il fatto della legittima difesa. Sì, dimmi, io non dimmi. Riesco a capire come mai mi devo difendere io. Sì. Quando, secondo me, invece che fare una legge sulla legittima difesa, bisognerebbe fare una legge per aiutare le forze dell'ordine. Sì. Cioè, poi, a parte, ma che vuol dire fatto, una legge per aiutare le forze dell'ordine? Non significa un cazzo una legge per... No, aspetta. Per dare, più fondi, più fondi, più... Sì, ma è una vecchia, storia questa qua. È vero, però ogni volta... Ma ogni volta si dice questo, non vuol dire niente. Non ci può essere un presidio ogni metro, è impossibile. Giustamente, però scusa, come sono io non so come sei tu. Io poi quando magari qualcuno mi arriva in casa, anch'io nel momento della rabbia, ma così preso a freddo, anche una pistola così mi... Non lo so, paura, amico mio, io ti dico una cosa, io comincerò a fare molto presto dei corsi per di tiro, presso delle strutture. Che corsi li devi sparare anche tu? A sparare, assolutamente. Comincerò a prendere delle lezioni per avere il brevetto sportivo e dunque avere di conseguenza un'arma in casa. Ti dico un'altra cosa, Cruciani, ma se tu vieni che ti chiamo il papà, come diceva il ragazzo di prima, o picchia la moglie o quello che ma che c'entra? Scusa. Aspetta, sul momento magari della rabbia gli spari, ma c'è anche quello magari... Ma non è che uno spara la moglie, che segue il rapinatore e gli spara dopo, cioè è anche una vendetta, non è più legittima difesa. Ma questo poi è un altro discorso, l'abbiamo sempre detto questo. Paolo, scusa un attimo, sono curioso, tu pratichi sesso anale? No, l'ho praticato, ma adesso è un po' che non lo pratico. E come mai? Cioè, ma adesso è un po' che non lo pratico. Come mai? Ma non è un problema questo. No, ma non sarà un problema, però. Ma come mai? Tu quanti anni hai, Cruciani? 50, amico mio. 50, come me, dopo un po' ti tranquillizzi o no? Cioè, dopo un po' dici i sensi si acquietano. Non è che devi andare a toccare il cielo con un dito, no? Beh, insomma, adesso. A 50 anni ti puoi. Sì. Dici, a 50 anni puoi anche acquietarti, cioè puoi anche fermarti. Sì. Puoi avere la tua routine. Questa può essere una filosofia. Luca da Palermo, vai Luca. Bravo, è bene. Palermo. Pronto, buonasera. Dimmi. Buonasera. Allora, io volevo fare una riflessione con voi e una domanda a Parenzo. Tempo fa, qualche giorno fa, avete mandato in onda una registrazione di un signore che aveva ricevuto 20 furti in appartamento ed era terrorizzato, era scioccato, non so, dico, piangeva al telefono. Sì, sì. Poi avete mandato in onda una persona che è intervenuta dicendo che ha ucciso una persona sorpresa a rubare a casa propria e l'ha uccisa e praticamente ha vissuto 2 anni di agonia, ha cambiato lavoro, ha speso so quante migliaia di euro. Volevo chiedere, poi Parenzo su questo si è espresso su una tua domanda diretta. Sì, però ragazzi, che vuoi dire, dicendo, Luca, dai. C'è lo Stato. Lo Stato, io vorrei capire, dico, lo Stato in che termini c'è? In che vuol dire? Vabbè, ma è un discorso troppo ampio questo. Che vuol dire, Luca? Non ho capito. Come no? Ma allora dico, non può rispondere c'è lo Stato senza argomentare. Per la difesa dei cittadini esiste lo Stato. Ma quale difesa dei cittadini? Cosa? Questa persona dopo 2 anni ha cambiato lavoro, ha cambiato abitazione, vive nel terrore. Una brava persona, dico, almeno dico, a detta sua sembrava una persona. Ma c'è sicuramente la persona, ma che cosa, se si difende da solo? No, ma c'è lo Stato, è troppo superficiale da parte tua. Cosa già prevista? Se uno si difende da solo, cosa già prevista? Quindi non ho capito cosa bisogna cambiare. Se ognuno si fa non bisogna cambiare nulla per te. Quindi allora, la legge non va cambiata. C'è una legge perfetta fatta dalla Lega, peraltro, dal ministro Castelli. Si chiama legittima difesa. Va bene, Daniele da Roma, vai. Daniele da Roma, vai. Esiste già. Daniele da Roma, vai. Pronto? Dimmi, Daniele, dimmi. Ciao, guarda, volevo dirti. Dimmi. La discriminazione dei Rom esiste. Sì. Perché io so che spesso in questa trasmissione sento dire che la discriminazione non c'è. Ma non c'è alcuna discriminazione nei confronti dei Rom. È chiaro che qualcuno li discrimina. No, è evidente dalle telefonate. Ma non c'entra niente. Costantemente ai crimini. Ma quando? Ma non è un caso. Non è un caso. Non è un caso. Non è un caso. Non è un caso. Tu e quel bacato in testa da Latina. Non è un caso. Non è un caso che i Rom vengano associati ai crimini. Non è un caso. Le persone commettono reati. I singoli commettono reati. La criminalità organizzata. Ma cosa c'entra? Nessuno lo nega questo qua. Nessuno lo nega. Non un gruppo. Ma si può riscontrare all'interno di un gruppo, all'interno dei Rom, un alto tasso di criminalità. Ma cosa vuol dire si può riscontrare? Vabbè, Daniele, cosa vuoi dire, Daniele? Che l'alto tasso di criminalità, ad esempio, che si trova nei Rom, che si può trovare, è anche il prodotto di una discriminazione storica. Questa cosa va detta, cioè un giornalista lo deve dire. Deve fornire anche dei ma dati, che c'entra la discriminazione che... storica nel col fatto che oggi sono dei ladri la maggior parte dei Rom? Spiegami. Perché spesso l'essere ladri deriva dall'essere poveri. Ma non è vero, è una cazzata questa qua. Non è che i ladri sono poveri, ma chi te l'ha detto? Sono pieni di soldi spesso i Rom. Ma ragazzi, ma non leggete le notizie sui sequestri che avvengono all'interno dei campi Rom? Sequestri di milioni di euro, di gente che si è messa in banca qualsiasi cifra, macchine, cose, non c'entra niente la povertà, nulla, nulla. Lorenza, provincia di Treviso, vai. Pronto? Sì, buonasera. Lorenza, chi sei? Sì, chi sei? Sono Lorenza, mi avete citata prima con una frase, ma io non l'ho sentita perché ero in treno, mi hanno telefonato in parecchie persone dicendo guarda che sei stata citata. Ah, Lorenza Tulli, come una grande forza della zanzara, ti hanno chiamato per telefono mentre eri in treno. Lorenza Tulli, sei la proprietaria di Castelfranco Veneto di una, che cos'è, un bar, una tabaccheria? Ma che bar, che un, cos'è? Appartamento, un appartamento al piano terra in condominio, cosa vuoi che sia? E hai subito 30 furti? Di più, ma non tutti in abitazione, Sì. Parecchi, moltissimi in abitazione. E come mai puntano soprattutto alla tua casa, scusami? Ma no, non è che puntano solo alla mia casa, anche vanno anche da altri, da me in questa casa, perché al piano terra. 30 furti hai subito, 30. Ma io direi che se commetto anche le 6 biciclette, le auto che ha denunciato mio marito, i furti che ha subito mia figlia, arriviamo a 50. Ma li hai denunciati tutti? No. No. Ti sei rotta le scatole di denunciare pure i furti? Mi sono rotta le... allora, se vai a denunciare una bicicletta, cosa fai? Ma chi sono i responsabili? Extracomunitari, albanesi, italiani? Guarda, chi sono? Allora, io so che non bisogna criminalizzare dei gruppi etnici. No, ma ascoltami. Brava, vedi, il buon senso Però, Parenzo, però bisogna dire pane al pane, al vino al vino. Brava. Allora, sono gruppi che vengono dall'est. Vengono dall'est perché trovano molto facile, e Parenzo lo sa, da Padova andare all'ex confine triestino ci mettono neanche un'ora loro, perché fanno i 200 all'ora. Certo, io rispetto le regole e loro non hanno paura di niente. I criminali sono Lorenza, quanti soldi hai perso in tutto in questo? Ah, tesoro, guarda, tra le banche che sono i criminali maggiori che mi hanno rubato i soldi, la Popolare di Vicenza e questi qua che la penultima quello è un'altra cosa, però. Ecco, è un'altra cosa. E poi ho detto vabbè, basta soldi alle banche, me li sono tenuti a casa. E così hanno pensato bene di venire quelli a entrare in casa mia, mi ha rubato gli ultimi soldi e così sono rimasta senza quei che debiti. Tragedia. Ma è vero che ti vuoi armare? L'ho pensato, sì. Ho letto da qualche parte, ho sentito il tuo intervento parte. Sì. E che pistola vuoi comprare? Che vuoi comprare? Pistola, fucili, cosa? Ma guarda, io sono sposata due volte col mio primo marito da giovanissima, sì. Io ho sparato anche perché lui andava a caccia, ma non sparavo neanche agli uccellini, pensate. Sparavo, non so, mettevo un bersaglio e sparavo a quello. Adesso però ti sei rotta. Guarda, non è che mi sono rotta, sono proprio demoralizzata e vedo che non c'è soluzione. Le soluzioni che dovrebbero trovare gli altri le lasciano così. Vaganti per aria. Allora, io non... Pronto? Sì, ti sento. Sì. Allora, io non accuso lo Stato perché sono sempre convinta che lo Stato siamo noi. Però? Accuso le istituzioni, non stanno facendo il loro dovere, non lo stanno facendo. Sì, però tu la pistola te la vuoi mettere in casa? Allora, ti sentiresti più sicura con la pistola in casa? Allora, siccome parlare di pistola non vuol dire è una cosa molto seria. Vabbè, pistola o ecco, un'arma qualsiasi. Sì, no. Sì, noi l'abbiamo provato anche con la mazza da baseball e sono riusciti a entrare Pierino a prendere la mazza da baseball. Mia figlia ha fatto arti marziali, ho detto finché mia figlia è qua vedrai che riusciamo a perlomeno a difenderci. Sono entrati piano piano di soppiatto, la mazza da baseball che era vicino al letto di mia figlia se ne sono impossessati e con quella è stata minacciata mia figlia che nella fattispecie era a casa da sola, aveva anche poveretta. Vabbè, dunque il prossimo passo qual è? Allora io sono andata a vedere della pistola, sono andata a vedere, so che è un passo importante e serio e definitivo. C'è paura. Va data gratis la pistola a Lorenza, gratis la pistola a Lorenza. Come gratis? Gratis va data, lo Stato deve dare gratis la pistola a Lorenza. Gratis, con dei detrazioni fiscali per Lorenza, assolutamente, con grandi concorsi. Volevo dire che adesso devo mettere sti antifurto che mi costano un sacco di soldi, sono senza soldi. Alla faccia di Librandi. Lei conosce il signor Librandi? Mamma mia, ce lo conosco, guarda. Signor Librandi dice che siamo tutti più sicuri in Italia. Sì, signor Librandi. Guarda, beato lui, cosa vuoi che ti dica? Beh, lui è un imprenditore molto ricco, capito? Si può permettere di avere la vigilanza, di avere magari... Guardi, mi dica qualcosa di Librandi. Del tu perché potreste essere i figli sì, miei. Ci dia del tu, certo, assolutamente. Ecco, allora, guarda, io ti dico, io il giorno dei funerali della Tina Anselmi qui a Castelfranco, io sono andata perché è stata una grande politica questa Vabbè, donna. Allora, dici, quelli di oggi fanno schifo, dici. Beh, insomma, paragonati a certi Librandi ti fa schifo, Lorenza, diciamo la verità. Guarda, non mettermi in bocca parole che non voglio che usino miei nipoti. Ti dico, io le parolacce le so dire tutte. Appunto. E se vuoi te ne dico una sfilza che vi batto tutti. Ma non le posso dire perché sto riprendendo le mie nipoti a essere educate. Tanto non ti sentono le tue nipoti. Che ti frega? Che ti frega? Sfogati contro il ricco Librandi che vorrebbe farti pagare i soldi della sicurezza. Perché il ricco Librandi? Ma cosa dici? Ma guarda, la signora non sa che nella finanziaria hanno messo... Ma quale finanziaria? Ma che ci frega della finanziaria? Se lei vuole mettersi delle telecamere, signora, che ne pensa del signor Librandi? Mi dia un giudizio. Signor Librandi, che capisce il Veneto. Sì, lo capiamo, lo capiamo tutti. Sì. Non sa neanche di essere a sto mondo. Vuol dire che non sa neanche di essere a sto mondo. Sì, non sa neanche di essere. Però vedi, la signora è educata. Lorenza, io ti abbraccio fortissimo. Mi raccomando, avanti con la pistola. Avanti con la pistola. Avanti con la pistola. Poi ti saprò dire. Va bene, ciao. Vi saluto. Ciao. Statemi bene. Ciao. È il top assoluto. La Zanzara. Cosa c'entra con Alatri? Rispondi a Parenzo! No, rispondo alle merde! Io con gli scocchi non ci parlo! Luca da Firenze, vai. Pronto? Dimmi Luca. Buonasera Giuseppe. Vai. Sì, io sono appartenente alle forze dell'ordine. Chiamavo per dire quello che ha detto l'altra sera l'onorevole Brandi, è veramente fuori dalla realtà, perché non è vero che i furti, i reati in genere sono in diminuzione. Non è vero che non si può generalizzare sul fatto che buona parte della criminalità è connotata dalla provenienza da un determinato settore, diciamo geografico. Io raramente ho trovato indiani, pakistani del Bangladesh che rubano, che spacciano. Purtroppo in altri settori ho rilevato la presenza di etnie che sono sempre le solite. È inutile che si dice che non è così, purtroppo è così. Ma è così, ma nessuno ce l'ha con quelli perché sono che sono rom o perché sono albanesi, eccetera. Però è così, è un dato di fatto, punto e basta. Mi segnalano da casa Parenzo, questo dato molto interessante, che l'avvocato Parenzo è sempre molto puntuale, preciso, sarebbe mio padre. Sì. Mi scrive, dillo alla Zanzara, 20.000 padovani hanno la pistola su 250.000 circa. Ottimo. Quindi ottimo. No, lui il numero dava come purtroppo, dato così giornalisti. Sì, ma 20.000 padovani, ma comprese naturalmente la pistola per uso sportivo, immagino. Mi ha scritto 20.000 padovani hanno la pistola su 250.000 circa, questo dato importante che mi viene fornito direttamente da casa. Allora che vuoi dire con questo? Non lo capisco. Questo lui lo dà come dato asettico. Io lo commento, dico sono tantissimi, sono forse troppi. No, ma che troppi, sono ottimo. Ma troppi. Vai, va aumentato. Sono troppi perché se su 250.000 abitanti, infatti si è visto il risultato, arriva a governare un signore che credo si chiami Bitonci, cresce la richiesta di armi. Evidentemente il sindaco ancora una volta non garantisce la sicurezza. Ecco perché vi dico, amici padovani, quello che vi volevo dire, purtroppo questa non è la risposta giusta, perché come è detto, sì, lo Stato e le forze dell'ordine devono dare la risposta al cittadino, purtroppo ti dico che tante volte ci troviamo a non poter dare la risposta, perché è allucinante che una persona si trova invasa a casa, a un edificio, e io veramente ho le mani legate perché non li posso buttare fuori. Allora, in determinate situazioni, ma quello che sta succedendo a Lecce, ne vogliamo parlare, è incredibile. Cioè è un piccolo caso che noi portiamo avanti da giorni. Non diventare sta cosa come fosse veramente ma se occupassero casa tua, devi vergognarti di quello che dici, ti devi vergognare di quello che dici. Se occupassero casa tua è un caso così, stai facendo diventare, hanno occupato una casa illegalmente. I signori Roma a Lecce vanno cacciati a pedate nel sedere. Fermi tutti. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Per lasciarti andare. Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napal. Suona una fisarmonica. Col napal. Fiamme nel campo Rom. Napal. Tua madre lo diceva. La Zanzara. La situazione è questa. Ospedale al sud della Francia. Mia moglie ha le contrazioni in ospedale, giustamente. Ed io le sto vicino e in cuffia ascolto il podcast della Zanzara. Cruciani, Parenzo, siamo al top. Questi che dicono che la Zanzara non è coerente coi valori dell'imprenditoria, della Confindustria, eccetera, eccetera, non hanno capito una beneamata minchia. Io, per esempio, ascoltando di Beppe Cruciani che faceva lo gigolo, ho pensato di creare una nuova startup. La voglio chiamare Cats to Go. Beppe, mi raccomando, ti voglio come primo utente iscritto, eh? Ma lo fai ancora, Peppe? Beh, grandi iniziative imprenditoriali che nascono come spunto da questa trasmissione, caro David, grandi iniziative imprenditoriali. Io andrei a Salerno da Maurizio e poi farei una visitina in quella, in quel posto che tu disprezzi, in quella masseria occupata, e disprezzi la battaglia di un signore, di un settantenne leccese che si è visto occupare una masseria ereditata dalla sorella da una ventina, da una trentina di Rom, che approfittando del fatto che ci sono una ventina di bambini, continuano a sostare illegittimamente all'interno di quella struttura. È un piccolo caso, ma significativo di come funziona questo paese. Maurizio, vai. Allora Peppe, senti, il demone Amodeo funziona, eh? Qual è? Asmodeo, scusami, è stato un lapsus. Perché? Che funziona. È successo? Un paio d'ore fa stavo facendo la spesa al supermercato. C'era una bella ragazza, signora, nera, ricca. Signora bella. O ragazza? Non ho capito, signora. Vabbè, io ho 50 anni, lei ce n'ha poco più di 30, per me è una ragazza, però... Insomma, dicevo, stavo facendo la spesa, io la volevo acchiappare, però non mi veniva... come dire, non mi veniva il lampo di genio. Allora diceva, sì, Asmodeo, come cazzo devo fare? Ha acchiappato lei me, ci vediamo domani sera. Cioè, non ho capito, hai citato Asmodeo e lei io è caduta. Io immaginavo tra me e me, diceva Asmodeo, come cazzo devo fare per beccarla? Ha beccato lei me. Ah, addirittura, solamente pensando ad Asmodeo, cioè invocando. Domani sera usciamo, spero che, visto che è nera, spero pure che Pelo sia lungo. Ah, tu speri anche che sia dotata di pelo, dici? Eh? Sì. Ti piacciono col pelo? Ma io te avevo proposto pure la grande inchiesta sul ritorno del pelo di figa. Sì, ma ho capito questo. Ti piace il pelo? Assolutamente. Cioè, ti piace anche il pelo folto, detto anche bosco. Ma perché scendi nel bush? Certo. Parenzo, perché scendo nel dettaglio? La vita è fatta di dettagli. C'è di assecondare. La vita è fatta di dettagli, Maurizio. Questo maiale, che l'ultima volta che ha visto quell'azienda lì è quando è uscito, quando è nato. Ma non credo proprio. Non credo proprio. Io, Lorenzo, guarda, per carità, uno che parla in questo termini, uno che parla in questi termini, ma con questa volgarità, vuol dire che l'ultima volta che lei l'ha vista quella roba lì è stata quando è nato, se le è andata bene, perché forse aveva pure gli occhi chiusi. Sì. Le donne sanno carenza di quelli che parlano così, parla con le donne. L'ultima volta che lei l'ha vista è stata quella volta di quando è guarda, nato. Guarda, l'altra volta, l'ultima volta che l'avevo vista era quando sono andato a vedere la Statua della Libertà, citando Woody Allen. Quello è Woody Allen, bravo. Lo citavi tu, mica io. No, comunque, no, io dico quando è nato lei. Che vado a New York tutti i giorni, ma insomma, mi difendo. Ciao. Cosa stanno facendo i Rom all'interno della masseria? Comunque, vogliamo dire una cosa sulla scomparsa del grande professor Sartori? No, ma non c'è bisogno, è morto, basta, punto. Come morto? Grande professor Sartori, basta, è morto, c'ha 91-92 anni, recentemente ho conosciuto la sua consorte, giovanissima consorte, bravo, in un posto a Roma, che mi sembrava molto attaccata al signor Sartori. Professor Sartori è morto, che dobbiamo dire? Ma che dobbiamo dire che è morto Sartori? Era un grandissimo, soprattutto quando bastonava la Chienge, te lo ricordi? Sì, quando bastonava dicendo che era un ministro inutile, adesso mi sto ricordando, me lo ricordo, bastonate certo, su bastonate all'amica tua, alla tua amica nera Chienge, la chiesa amico mio, con me sfondi una porta aperta. Io mi metterei in collegamento con la masseria di Lecce per capire se il nostro amico Rom, tuo amico Rom soprattutto, signor Giovanni, è ancora sul pezzo, cioè sta ancora occupando locali non suoi. Vediamo. Pronto? Giovanni? Sì? Buonasera, chiamo da Milano, come va? Buonasera. Come va la situazione alla masseria? Sempre così, siamo lo stesso. Non è cambiato niente? No. Ma perché non volete andare via? Qual è la trattativa in corso, Giovanni? No, non è che non vogliamo lasciare la casa. Però ci vogliamo qualche altro alloggio, perché i nostri risparmi ne abbiamo messo qua. Dove andiamo con 20 bambini? No, ma quello l'ho capito, ma la casa è di quel signore però. Ma l'hanno messa a posto un po', no? Mi pare. Sì, abbiamo pitturato, abbiamo chiuso le porte. Due mesi abbiamo lavorato qua. Sì, ma tu sapevi che quella casa non era tua quando sei entrato? Scusa se te lo dico, caro amico Rom. Sì, hai ragione. Però noi abbiamo sistemato prima, era sporco, era molto, le siringhe di droga che si prostituiva qua. Ma ho capito, era questo un macello. Era un macello, voi avete sistemato. Scusami fratello Rom, avete riqualificato la zona sostanzialmente, questo stai dicendo, no amico Rom? Sì, tutta la zona abbiamo pulito. Tutto riqualificato. Ma il proprietario dice che è una zozzeria lo stesso, tutto ammassato là fuori. No, noi abbiamo pulito, abbiamo chiuso, abbiamo fatto la, dunque, un la gioie- cosa giusta. È un gioiello praticamente adesso. Sì. Cosa volete per andare via? I nostri soldi, almeno li prendiamo un affitto. Cioè, volete i soldi indietro? Volete che il proprietario della casa vi dia i soldi? Sì, se ne dà un alloggio, ne dà i soldi per andare a un altro alloggio, noi lasciamo la casa. Beh, okay, amico mio, d'accordo, ma quella è casa sua, non è che vi deve dare i soldi lui? Se noi abbiamo messo questi soldi nostri che abbiamo comprato il materiale nuovo dal negozio, che abbiamo chiuso le porte, le cose, abbiamo la giustificazione. Noi come rimaniamo con questi soldi che non teniamo Ho capito, amico mio. Lavoriamo. Avete fatto qualcosa che nessuno vi ha chiesto su una casa che non bene, è. Perché non è contento che prende la sua eredità indietro e lo vede pulita, lo vede tutto sistemato? Ma perché quello vuole fare gli affari suoi? Se la puliva lui la casa o no? E pagava se lo puliva con altri, no? Ma pagava con altri, mica voleva pagare voi, però. Se noi abbiamo messo i soldi nostri, noi come rimaniamo? Ma rimane così, il campanone è chiuso, è pitturato, è tutto a posto, le porte messe. No, scusa, amico mio, però voi. Forse possiamo trovare un compromesso, nel senso, voi ve ne andate perché l'avete occupata e vi viene riconosciuto qualcosa per questo lavoro anche utile che avete svolto. Possiamo trovare questo compromesso, amico Rom, no? Sì, lei che mi dice? Con 20 persone in mezzo alla strada, dove possiamo andare? Ho capito, ma quanti bambini ci sono là? 20 bambini. E che fanno? Vanno a scuola o no? No. 3-4 vanno là. 3-4 Tutte le scuole erano impegnate, erano occupate. E voi che fate nella vita? Tu che fai, per esempio? Niente, non faccio. Non lavoro, io al semaforo sto per lavare le vetri. Non fai niente. Gli altri che fanno? Rubano? Che fanno gli altri? No, nessuno non rubano. Non li ha preso mai la polizia. Tutti vivono del cantonaggio. A cattonaggio. Sarebbe meglio però, signor Rom, provare a trovare un lavoro. Ad esempio, lei avrà seguito sicuramente in questo momento alla Confindustria. Tra un po' si libererà un posto per guidare il sole 24 ore. Qualcuno di voi potrebbe ad esempio candidarsi. In 13 no? anni ho lavorato soltanto 6 mesi. I figli ecco. Vostri che sono laureati non hanno posti di lavoro. Scusa. Ho capito, amico mio, però non sarà mica colpa dell'Italia se non c'è un posto di lavoro tu. Se io per esempio avevo soldi per affittare una casa, neanche la casa non mi danno. Che ha sbagliato quando sentono che sei rumeno, zingaro. Vabbè, ma qualche lavoro, qualche furtarello lo fai per campare, sennò come fai? Solo 6 mesi ha lavorato negli ultimi anni, qualche portafoglio te lo fai ogni tanto, o no? No, non siamo persone di quelli. Come ti permetti a dire che io sono... No! Devi rispettare, devi parlare in un modo civilizzato. Tu occupi la casa, io devo parlare in modo civilizzato. Ma guarda che sei incredibile. Come hai fatto a trovare i soldi per mettere a posto la casa? Come l'hai trovati quei soldi? Ma no, non pensi in questi 13 anni. Metti qualcosa da parte oggi. Se raccogli abbiamo comprato ma cosa. Quanti soldi vuoi dal proprietario per andare via? Quanti soldi vuoi? 3 famiglie, 2.000 euro da famiglia. 6.000 euro in tutto vuoi? Se vuoi 6.000 euro per andare via praticamente. Dateci 6.000 sì. euro e andiamo via. Sì. Questo vabbè, magari possiamo. Ma ti pare normale? Ti pare normale, amico mio? Amico mio, ti pare normale che uno però paga per avere casa propria? Signor Rom, ma perché gridi? Scusa. Ma no, ma grido perché mi incazzo. Scusami. Signor Rom. Calmati, per favore, calmati. Io sono calmo. Vedi che il Rom non accetta provocazioni, giustamente. Stiamo calmi, amico Rom, perché questa trasmissione è terribile, tipo dalla vostra parte. Signor Rom, io sono anche pronto a capire le ragioni, però lei deve, bisogna sgomberare tutto lì perché non è di sua proprietà, capito, amico Rom? Io capisco la situazione nella quale lei vive, la capisco, però la invito uno a trovarsi immediatamente un lavoro, anche facendo richiesta. Lei conosce il Sole 24 Ore, signor Rom? Sì. Ecco, allora lei venga a Viale Monterosa al Sole 24 Ore. Ma quello sta a Lecce, noi stiamo a Milano, che viene? Venga al Sole 24 Ore, Viale Monterosa a Milano, porta il suo curriculum e dice: voglio fare il direttore di questo giornale. Può essere una soluzione, no? Se voi trovate qualche soluzione per noi, che è meglio anche per il proprietario, anche per noi. Ma però noi, scusami, siamo amico mio, la cosa fondamentale è questa: c'è un sacco di gente incazzata in Italia che vi vuole massacrare perché voi avete occupato. Lo sentite? La sentite la rabbia degli italiani o no? Perché voi avete occupato una roba che non è vostra, o no? Signore mio. Signore mio, vedi, sentite. Quanti sono nella Puglia di Lecce che hanno preso le case comunali? Sono entrati abusivo e sono rimasti là. E ho capito, ma non è che vuoi fare la stessa cosa tu? No, non facciamo questa, neanche non vogliamo rimanere qua, perché non ci sono possibilità da vivere, non c'è acqua, non c'è niente. Io metto 5 euro sempre nel generatore per avere un po' di luce. Ma il proprietario è incazzato nero, è incazzato come una bestia il proprietario, lo capisci? Ma non è che abbiamo fatto noi qualcosa brutto e lui è incazzato. Ma quello rivuole la sua roba. Eppure noi vogliamo la nostra roba. E che se cosa? No, altrimenti il tribunale decide. Allora voi rimanete lì, se non avete i soldi rimanete lì. Che dobbiamo fare? Vabbè, ciao amico mio, ciao. Ciao. avete sentito una puntata di Ricatto Rom? Ricatto, beh, amico mio, se non è ricatto questo. Ma no, ma non c'è dubbio. Avete sentito una puntata di uno speciale Ricatto Rom. Il titolo è questo. No, ma c'è un titolo, Ricatto Rom. Amici miei, cioè questo qua sta dicendo, siccome abbiamo pagato, poi si attaccano ai cavilli, alla burocrazia, ai bambini, è una vergogna, sfruttano i bambini per rimanere lì. Cioè, siccome ma questo come qualsiasi occupante abusivo, non è perché è rom, lo capisci o no? La battaglia va fatta contro tutti gli occupanti abusivi. Il fatto è che se ci sono se lo sai che sei indegno veramente. Scusami, Francesco, quella masseria, adesso diciamo quella masseria era sfitta. Era ma che vuol dire che era sfitta? No, fammi sapere, era sfitta o no? Beh, certo, era appena ereditata, l'aveva appena ereditata il tizio. Quelli l'hanno occupata un po', hanno sistemato, adesso se ne vanno, gli si dà un piccolo indennizzo. Ma indennizzo un cazzo! Ma quale indennizzo? Vanno presi e vanno denunciati! Vanno denunciati per occupazione abusiva, vanno messi in galera! Ma sì, occupazione abusiva, ma infatti, ma come tutti quegli abusivi che occupano le case. Cioè, chi se ne frega adesso di tutti gli abusivi? Stiamo parlando di questi abusivi. Questi abusivi qui, era sfitta quella masseria. E beh, ma che vuol dire? Non è che tutte le cose sfitte possono essere occupate, ma che dici? Sei impazzito? Lo so, Francesco da Taranto, dai. Pronto, sì. Mi sentite? Dimmi. Buonasera a tutti, che bel momento. Veramente mi si è ristretto il cuore nel sentire queste che schifo, guarda, cose. Che schifo. Comunque, che schifo. Un grandissimo saluto anche a Parenzo. Mi ha mandato un messaggio un amico, un combattente, che dice vado io a Lecce, gente che vuole andare lì a risolvere la situazione da questa gente che se ne fotte di tutto e di tutti. Uno sarà in questo momento mi trovo a Lecce per lavoro, sono di Taranto, ma sto a Lecce. Se mi date l'indirizzo vado a fare un passaggio, ho degli amici, figura, posso portare con me, andiamo a fare un bel censimento. Importante che sia gente pacifica, no, ci mancherebbe altro, siamo delle persone molto vabbè, che vuoi dire Francesco, infatti. Che vuoi dire? E niente, io volevo intervenire sul discorso sempre delle persone che entrano in casa. Allora? Bisogna mettersi veramente una volta per tutte l'anima in pace, tirare giù una legge seria e importante per dire chi entra in casa. Io mi sono per esempio organizzato, ho delle armi bianche in casa, cioè? Perché non voglio fare rumore nel momento in cui che armi hai? Ho delle, per esempio una motosega elettrica con ricarica elettrica, per cui se mi entra qualcuno in casa, il maiale di passaggio, che mi entra in casa senza cicotonare, perché magari trova la porta, vuole entrare per combinare, non so lì a chiedergli cosa succede. Io piglio, l'ho affetto per bene. Dopo che, dato ho capito, che ma quella fa rumore, però, amico mio. No, non fa molto rumore. Non è un'arma bianca. Quella bella arma bianca nel momento in cui sta entrando. E poi una volta ammazzato, una volta tagliato? Darlo agli animali, che qualcuno potrebbe anche prendersi una brutta malattia mangiando. Parenzo, è una soluzione? È una soluzione. È una soluzione quella di fornire immediatamente, ma lo devi fare, alla procura competente, che penso il signore da dove chiama. Taranto. Dalla procura di Taranto, fornire subito il nome e il cognome della persona con il numero di telefono che ha lasciato alle nostre ottime ragazze centraliniste, affinché, ora sono le 20:14, ma domani mattina alle 9:30, quando il magistrato con calma, prende la richiede, la rimanda alla polizia, Radio 24, ma perché? Che ha fatto? Che ha fatto questo? Chiede l'audio della... è giusto, ci mancherebbe, li aspetto a casa, vi do tutto. Ma io non ho capito. Ma stiamo scherzando, qua non bisogna aprire un fascicolo, bisogna aprire qualche fossa. Io tempo fa... Vanno aperte le fosse. Vanno aperte le fosse, solo perché io mi sono permesso, durante un furto di un'auto, mi sono fermato per guardare, perché mi sembrava una cosa abbastanza strana. Vabbè, allora? Mi sono fermato, il tizio si è avvicinato alla macchina, ha detto o te ne va con le buone e fai finta di non aver visto niente, o ti piazza una palla in fronte. Allora? Cioè, io come una persona normale mi sono fermato perché volevo capire di cosa stava succedendo. Cioè, abbiamo a che fare con delle persone che non guardano in faccia a nessuno. Vanno aperte le fosse dove seppellire evidentemente i ladri. Sicuramente sì, e poi andando anche... Vabbè. No, attenzione, non ladri, attenzione, c'è una bella differenza. La persona che mi entra in casa non è un ladro, è una persona che coscientemente entra per fare qualcosa ed è pronto... A contrastare una qualsiasi forma di ciao, ho capito. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Cattiva la zanzara. E lo ribadisco, una Glock 19, cassaforte, la stanza da letto e si dorme tranquilli. Glock 19, bella carica, 16 colpi, via. Ciao Cruciani, io sono per il mettere sotto tensione i serramenti di casa, mettere la corrente elettrica e ogni tanto trovare qualcuno lì secco. Ore 2 di questa notte, ascoltavo il podcast della Zanza, a un certo punto sento dei rumori sotto casa, mi affaccio dalla finestra e c'erano i signori ladri, sicuramente amici di Parenzo, al lavoro. Ha ragione la signora Lores, napalm, napalm. Asmodeo, vai di... OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presento La Zanzara. Parenzo, non faresti mai il lavoro di Omar Galanti, non perché la tua etica te lo vieta, ma perché il tuo pistolino non è all'altezza. Per offendermi le persone dicono che assomiglio sempre più a Parenzo. Via Parenzo, siamo due pezzi di merda perbenisti, super top. Parenzo, cagati in mano e poi schiaffeggiati da solo. Allora, caro David, la maggioranza silenziosa ogni tanto si fa ascoltare, ogni tanto viene, come dire, sormontata, viene vilipesa. Viene tirata fuori dal regista cattivo. No, perfido, ma che c'entra? No, che no. Isola, sì, ho detto tutte le cose, che isola ad arte alcune voci di poveretti, di miserabili, di gente che sta male, disturbata. Allora, eccetera. Ragazzi, devo dirvi che io nel pomeriggio ho sentito, sì, sono riuscito a sentire dopo diversi giorni, sì, la famosa Sara Castellino. Sara Castellino è quella vegana, sì, e quella super vegana, una con ragazzina. Hai avuto anche una storia, no? Non ho avuto nessuna storia con questa signora Castellino. Ti stai sbagliando? Perché vuoi gettare fango così? No, cioè, vabbè, intanto l'abbiamo detto. Mi pare che tu hai avuto anche una storia, poi. Ma non è vero affatto. Cioè, hai avuto anche un rapporto lungo, questo ti ha creato dei problemi anche a casa. Ma non è vero! No, assolutamente no. Allora. Forse mi sono sbagliato. Questa Sara Castellino. Intanto l'abbiamo detto, intanto l'abbiamo buttato là, no? L'abbiamo dato in pasto all'opinione pubblica. Questa intanto. Sara Castellino. Questo è il metodo. Ha scritto su Twitter mettendo la foto di Emanuele, quel ragazzo di Alatri ucciso. Emanuele è morto e anche il pesce, con la foto di Emanuele con un pesce che aveva pescato da poco, che tra l'altro è una carpa che probabilmente ha ributtato dentro il lago, il fiume, dove cazzo era. La signora Castellino nei giorni successivi è stata tempestata di telefonate, minacciata, anche insultata, eccetera. Sara Castellino, ho avuto un colloquio molto breve con la signora Castellino. Per forza. La quale non ha, non è vero, la quale non ha rinnegato, non si è scusata di nulla, di niente. Io ho scritto: Emanuele è stato ucciso, il pesce anche. Io semplicemente ho scritto il mio pensiero, quello che mi passava per la testa, ma che non è stato comunque capito. Nella foto non c'era il pesce, che io l'ho guardato e ho detto: ah beh, però cioè, anche il pesce è morto, per dire, c'era anche un'altra vittima. Non c'entrava niente lui in quel post, cioè non era una morte chiama morte, era un pensiero tipo anche anche il pesce è una vittima. Ti rendi conto? Cioè, siccome uno vede il pesce insieme a uno che è stato ucciso da poco, dice: beh, anche il pesce è morto, però. Ma proprio è la testa che non funziona. Poveretta. Cosa fa quel pescatore col pesce? Lo uccide, no? Assassino non è il termine che si dà quando si uccide una persona. Si dà quando si uccide un essere vivente. Quindi non è sbagliato il termine. Anche il pescatore è un assassino. Così dixit Sara Castellino. Ogni vita ha il suo valore, sicuramente io guardo la mia di vita che non è diversa da quella di un pesce, ma non è una cosa che dico io che è strana, capisci? Cioè, il pesce è una vita, come si fa a dire che il pesce non è una vita? La mia vita non è diversa da quella di un pesce, Adesso Parenzo, tu hai una vita un po' bizzarra, ma è simile a quella di un pesce la tua vita? È uguale a quella di un pesce, di una carpa, no, di un'orata? No, di una, assolutamente di una, no. Di un, non lo so, di un pesce meraviglioso che magari, no. Magari stasera tardi mangerai a Napoli, sicuramente, sì, certo. Un'orata. C'è questa ottima cosa che fanno qui a Napoli, una specialità che è il branzino fritto, si chiama. Ah, pesantezza. Fanno tutto. Poi, dopo avere detto che magari ho scritto una cosa in un momento sbagliato, eccetera, eccetera, parla dei terremoti. Si sa benissimo, se leggi su internet o se sei informato, che i terremoti avvengono perché comunque vengono abbattute le nutrie che non riescono più a formare bene argini di fiumi, quindi possono provocare alluvioni, terremoti. Ma torniamo sul momento sbagliato, dai, torniamo sul momento sbagliato. Sì, magari ho scritto in un momento sbagliato, ma non è che è un momento sbagliato, hai scelto proprio quel momento apposta, quella foto apposta, perché era la foto del morto, del ragazzo assassinato. Convengo con te che magari il momento fosse sbagliato, ma quello che ho scritto io, cioè non è che mi sono inventata qualcosa, io ho descritto la foto. I macellai sono degli assassini. I macellai sono degli assassini, non è un mestiere quello del macellaio, quelli che lavorano nei macelli saranno povere persone che non hanno trovato altri lavori. Va bene, Tommaso, Firenze, vai! Ragazzi, ciao, ciao. Dimmi. Ti voglio bene, te lo posso dire? Sì, certo, assolutamente. Ti ascolto. Sì, però non ti sentiamo bene, Tommaso, ci vorrei anche bene, no. Ma non ti sentiamo. Oh! Fammici riprovare. Lo so, ho capito, parla più forte, parla, mettiti in un posto dove prende. Parlo volentieri, ci sto provando. Vi volevo parlare un secondo del discorso delle pistole. Io capisco la preoccupazione, capisco la rabbia, ma armare le persone come la signora prima, che non dice le parolacce per non far preoccupare le nipotine, a che cosa può portare? Ma non lo so, è lei che si vuole armare, mica io la voglio far armare, è lei che si vuole armare. Ma io non la istigo, è lei da sola che ha detto voglio comprarmi un'arma, è andata a informarsi. Io che cazzo c'entro, gli hanno fatto 30 furti, scusa. Sì, però Tommaso, ci vorrei bene, ma non si sente un cazzo, dai. Angelo dalla provincia di Campobasso, vai. Salve a tutti, chiamo da Pietracatello, un piccolo comune del Molise. Sì, dimmi. Allora, niente, volevo solo comunicare che noi da una settimana o due stiamo effettuando ronde tutte le notti. Siamo 8 macchine. Beh, e allora? Ieri sera abbiamo subito l'ennesimo furto di un poveretto che aveva un capannone, insomma, le hanno svuotato tutto, di tutto. Se chiamiamo i carabinieri, perché quello possiamo fare, anche se siamo armati di armi. Ma dunque, che ci vuoi dire? Non ho capito, che ci vuoi dire? Di aprire gli occhi, tutte le Riccia, Sant'Elia, tutti questi paesi. Ma che cazzo me ne frega a me, Riccia, Sant'Elia, che cazzo me ne frega? Non sappiamo cosa fare, veramente. E dunque, come vi state organizzando? Non ho capito. Allora, noi tutte le notti usciamo e facciamo ronde, abbiamo 2 ore di sonno, non ce la facciamo più, perché se chiamiamo i carabinieri purtroppo vengono. Non ho capito perché, qual è il punto, cioè ci sono una serie di furti là e dunque la polizia non è sufficiente, i carabinieri non vengono e dunque... Le forze dell'ordine non riescono a starci dietro. Come si chiamano i paesi, Angelo? Allora, noi siamo Pietracatella. Sì. Nel Fortore, insomma, sono paesi tutti vicini. Vi faccia capire, caro cittadino, una volta che fate questa ronda, no? Fanno le ronde per dare sicurezza. Noi segnaliamo targhe che le comunichiamo alle forze dell'ordine. Questo possiamo magari fare. Questo può essere anche una cosa giusta. Ma questo è giustissimo, assolutamente. Fermo lì, fermo. Adesso la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il Lavoro. La Zanzara. Pronto, informativa di servizio. Qui sulla statale Melegnano Binasco, ore 11:49 del D 404-2017. Puttane a gogo, tutto alla luce del sole. Sciare sul Cervino e sono andato di là in Svizzera a Zermatt. Tappa obbligatoria. case chiuse. Siamo al top, siamo al top. Rox, una sera alle 2 di notte, nel tratto che va da Civitanova a Porto Sant'Elpidio, che sono circa 7 chilometri, ne ho contate 49 di belle signorine in attesa di clienti. Siamo il top! Allora, Antonino da Firenze, vai Antonino, vai! Sì! Dimmi, Antonino, eccomi. Vai. Senti, io sono un cazzaco nero, ma dimmi. Veramente, guarda, un cazzaco nero a sentir parlare qui rom di prima. Questa gente ci ha rotto veramente i coglioni. Va mandata via, non dico a fare le docce, ma quasi. Non so se tu capisci che no, vuol dire. No, che vuol dire? Voglio... Io ho capito, no, io purtroppo. Sono indignato. Ma che io vuol dire a fare indignato. Le docce? Non ho capito, scusami, che vuol dire a fare la doccia? Io purtroppo ho capito cosa intendi. A che ti riferisci? So, Parenzo, che tu hai capito, lo so, Parenzo. A che ti riferisci, Antonino? E mi vengono i brividi a sentire ste. E lo so, hai ragione, porcherie. Mi dispiace dire queste cose. Antonino, a che ti... fatemi capire anche a me, che vuol dire le docce? Come faceva Baffino, non so se tu ti ricordi. Ah, ma le docce dei campi di concentramento, dici? All'incirca, all'incirca. Ma che, se tu vorresti mandare i rom? No, io questa gente ne voglio mandare via dall'Italia. Beh, ho capito, però hai fatto un riferimento alle docce, agli ebrei, dai. A Firenze non si vive più con questa gente che è a cattare, a elemosinare con questi bambini. E poi, padroni di che? Ne hanno preso la masteria a quella gente. Ma dove siamo? Ma dove esistono? A me lo dici, cose? Antonino, sono incazzato come te io. Cioè, sono incazzato come te. Cioè, fomentare la gente contro... Hai visto qual è il risultato? Qual è il risultato? Spiegami, qual è il risultato? Il risultato è che un cretino qualunque si sente autorizzato a fare l'800240024, a lasciare il suo numero di telefono e a farsi richiamare, ovviamente, per dire queste cose. Allora... A dire nome e cognome, cioè non ha neanche più la paura di dire, di evocare le docce, non si sente uno schifoso per aver detto che vanno gasati i rom, non si sente una persona. Come rispondi, Antonino? Come rispondi? Non c'è da rispondere, c'è da abbassare la testa e andarsene, e se ne torni a casa sua in silenzio. Come rispondi, umiliato, Antonino? Come rispondi? Vengono qui per rubare e basta. Questa gente viene qui per rubare. Ho capito, come rispondi a Parenzo che dice che non hai avuto nessuna remora nell'evocare le docce, gli ebrei? Mi dispiace avere urtato la sensibilità di Parenzo, perché la reputo una brava persona, però mi fanno incazzare queste cose. Io ho vomitato ieri sera a sentir parlare quel diavolo d'onorevole. Librandi, si chiama Librandi. Qui buonista, buonista di Kaiser. Ora stasera sento parlare quest'altro. Ma io da italiano sono indignato. Basta, chiudo. Ciao Antonino, Francesco, provincia di Lecco. Cruciani, dimmi Francesco, Cruciani. Dimmi. Non ce la faccio più io a sentire Parenzo, Cruciani. Vabbè, sì, che, no, poi, che te devo fare? Anche lui non ti sopporta. Io non ce la faccio più, io ti ascolto da una vita, ma io non ce la faccio più a sentirlo. Io, no, anch'io. Allora, chi mi entra in casa me lo mangio. Io chi mi entra in casa me lo mangio. Te lo mangi. Vado giù in Puglia, li caccio io questi. Non ti preoccupare che da te non viene nessuno. Non ti preoccupare. Sta andando a far culo. Come? Come? Sono incazzato. Ma non ho capito. Vai giù in Puglia a fare cosa? Li ammazzo. Li caccio io di casa. Cioè, li ma hai detto li ammazzo? Hai detto. Ne ammazzo pure, ammazzo tutti, che qui è una politica di merda, qui siamo rovinati, non funziona più niente, Cruciani, non funziona più niente. Non ho capito. Siamo rovinati, Cruciani, siamo rovinati. Adesso siamo rovinati, dipende, dai, cioè, dipende, siamo rovinati. Io non ho capito. che cosa ti provoca l'idea di questi rom che hanno occupato la masseria, i signori rom. Non si occupa un cazzo, Cruciani, non si occupa niente! Calmo. Ma come si può occupare? Calmo. Io passo con una macchina da un centro dove non si può passare, mi fanno 150 euro di multa. Se non pago mi porta via la casa. Questo è vero. No, ma cosa gli dici? Questo è vero. Mi fanno tutti col cazzo che vogliono, Cruciani. Io, Parenzo, ogni volta che lo vedo in televisione me lo mangerei. Senta, allora, te lo mangeresti addirittura. Le vengo incontro. Il Servizio Sanitario Nazionale passa delle cure specifiche per la sua malattia, cioè per la sua schizofrenia. È una convenzione. Il Servizio Sanitario Nazionale la cura, non si preoccupi. Hai bisogno di cure? Hai bisogno di cure, Francesco? Dice Parenzo. Ha sentito? Perché devi rincarare la dose? Dice Parenzo, tu c'hai 40 anni di merda in testa, hai capito? Non capisci un cazzo. L'Italia va a far culo per quelli come te, in televisione. Io quello che posso fare è cambiare programma per quel poco che... Vabbè, programma, adesso... Questo lo può fare, certamente. Francesco, ma non ho capito la cosa che ti fa incazzare di più, qual è? Ascolta, Parenzo, ho lavorato una vita, sono ridotto, va bene, mi è contento di... Ho sempre fatto le cose andavano fatte. Allora? E l'ho sempre preso nel culo, hai capito? Vabbè, ho capito, ma è questo che ci possiamo fare noi, scusa. Ti fa incazzare cosa? Io arrivo da un paese. Che è la Calabria. Ero piccolo, capito? Non sapevo cosa voleva dire il razzismo. Adesso invece? Adesso? Sono diventato una bestia, Si vede, si nota. Ciao Francesco, ciao. Allora, caro David, l'Italia vera significa anche collegarsi con Mirella, che fa il mestiere più vecchio del mondo, che sai qual è, naturalmente, lo sappiamo tutti, è inutile dirlo. È evidente che ormai alle 20:43 c'è sempre una prostituta, questo è evidente. No, ma non dire queste cose, è una prostituta, dai, Mirella, buonasera. È una rubrica fissa, come sul venerdì di Repubblica c'è l'orosco. No, buonasera, signora Mirella, buonasera. Buonasera. Come sta? Buonasera, cara. Sono sdraiata. Sdraiata, diciamo che è una sua posizione abituale, diciamo, no? Appunto. Dunque, adesso è di rilassamento, però, è tutta un'altra cosa. Adesso è di relax. Allora, la signora Mirella, la particolarità è che fa questo mestiere da 30 anni e ne ha praticamente 65, se non... No, ma che 30 anni, esagerato. Da quanti anni fai? Ah no, sono 15 anni, esagerato. Ah, da 15 anni, mi hanno dato... Ma l'età non si dice mai di una donna, eh? Però si dice, perché la particolarità è quella che tu, nonostante il fatto che tu abbia 65 anni, insomma, batti, no? Fai la prostituta, se lo posso dire, dai Mirella, non è una cosa... sulla strada però, Non sulla strada, con che cosa? Appartamento, che fai? Certo. Annunci? Certo. Oppure c'hai un giro di persone, passaparola? No. Metto l'annuncio come al solito. Ma a 65 anni ancora te la cavi da questo punto di vista? Cioè sei ricercata? Sono ancora una bella donna, 60. Per come mai tu 15 anni fa ti sei messa a fare la mignotta? Scusami se te lo dico, ma io lo dico in senso buono. Sono stata costretta a farlo perché sono rimasta vedova e a questo punto avevo comprato un appartamentino. Sì. E purtroppo vado in affitto, rivendo l'appartamento, fatto l'affitto lo devo pagare a questo punto. Convenuto. Però scusami Mirella, io lo capisco, però non è che per forza uno si mette ma se tu non trovi lavoro, sì, ti licenziano, che fai? E che facevi fino a 15 anni? Ho cercato lavoro. Che facevi? Dopo 3 mesi devo pagare l'affitto, devo mangiare. Non c'è dubbio, fino a 15 anni fa cosa facevi? Io ho avuto sempre locali, ho avuto marito. Una volta che il marito è andato via? No, il marito non è andato via, il marito è morto. Vabbè, è morto, è andato via, volevo dire, in senso, come dire, no? Metaforico, diciamo. Una volta morto il marito, tu praticamente... sei stata costretta a... locale, cose varie, no? Tragedia, non è che l'ha scelto di farle. Ma ti piace farlo? Infatti. Non ti piace per niente? Che cosa? Fare la prostituta? Non è, all'inizio io ci ho sofferto, certo. C'hai sofferto, però poi l'hai fatto, nel senso che qualche predisposizione ci deve essere all'inizio, un po', no? No, voi uomini parlate in questa maniera, la predisposizione. No, dico... Quando io stavo con mio marito, sono stato con mio marito, che non ho mai fatto le corna. Ma vedi, è una storia meravigliosa questa, perché ti spiega che non è che aveva voglia di farlo. Purtroppo è l'unico mestiere che ha... È stata costretta a farlo. Vedi, questa è... Senti, no, perché sa, Cruciani fa sempre l'elogio di quella bellezza della prostituzione. No, non ho detto questo, ho detto semplicemente... Lei ci racconta una drammatica storia italiana. Ma drammatica storia, adesso non esagerare, drammatica. Ma lei lo fa liberamente e credo che non si sia pentita di averlo fatto, no? Mi sono pentita. Ti sei pentita di averlo fatto? Ma io sto cercando invece di smettere. Cioè a 65 anni tu giustamente vuoi smettere qua? Io vorrei trovare un uomo... stare tranquilla con questo uomo, amarlo, stare tranquilla, che discorsi. È un grande messaggio, bravo. Involontariamente Cruciani abbiamo lanciato un scusa Mirella, messaggio. Ma io perché io sto qua ad ascoltare, mica ho delle, mica ho dei pregiudizi. Io voglio dire, quelle che tu hai incontrato sono schiave oppure lo fanno anche autonomamente? Ascolta, io volevo conoscere una persona. Sì. E io dettando a loro volevo scrivere un romanzo. Sì. Perché ne ho tante cose da dire. Sì. Per la perversione che hanno gli uomini. Per esempio, raccontami qualcosa della perversione degli uomini. Capito? Raccontami qualcosa. Ognuno ha le sue fantasie. Per esempio, la cosa più strana, una delle cose più strane che ti è successa in tutti questi anni, 15 anni di no, prostituzione. Non è tanto la stranezza, perché ognuno ha la sua fantasia, come ti ripeto, no? Allora, io ti ho detto faccio anche il sabato, no? No, non maledetta, l'hai detta a qualcuno dei miei assistenti. Sì. Hai fatto, fai anche il sado, cioè che ne so, che fai, picchi? Sì, che c'è quello che si fa tirare le palle, che gliele lego, frustate, umiliazioni, sputi in faccia. Insomma, sputi in faccia. Beh, amica mia, sputi in faccia la 65enne signora Mirella che sputa in faccia. Parezzo, ti paresti sputare in faccia? Io mi rivendico, mamma mia. Tu lì? Ma perché uno si deve far sputare? Io ne conoscerei tanti a cui mi piacerebbe sputare in faccia. Però allora mandemene se gli sputo in faccia, dai. Gli pagherei io una seduta, guarda, molti di questi. Scusa, ma... Quanto costa per farsi sputare? Se ti mando uno, cara, e gli sputi in faccia, quanto costa? Mezz'ora 100 euro, minimo 100 quanto? Euro. Quanto? Mezz'ora 100. Vabbè, se faccio una coppia, Donato da Varese e Mauro da Mantova, pago io. non parliamo di soldi, sennò mi fanno venire... Fanno venire quelle delle tasse. Facciamo un Ducentello. Sputagli in faccia e tiragli le palle. Mi sembra meraviglioso. Milly, tu quando fai il sadomaso, quale altra stranezza fai oltre a legare le palle, vabbè, sputare in faccia, eccetera? Ma c'è, tanti che lo prendono anche dietro, oltre quello. E come, come fai te? Qualcosa? Scusa, con lo strapon? Ma a volte sì, a volte no, dipende. E che gli fa? Ah, col coso, tu dici? Col vibratore, dici? Sì, un vibratore, tanti lo prendono. Ma ragazzini che invece a cui piacciono, lo scelgono, sono diversi. Ah, beh, certo, le ragazzine a cui piacciono le 65 anni, insomma, gente un po' matura. Ci sono pure? No, c'è una via di mezzo. Tanti giovani no. No, vengono, però io tanti giovani non li prendo. Non li... Come io mai? Sempre se sono maggiorenni, perché se sono minorenni. Allora, quello è, cioè, italiani o stranieri, scusami? No, stranieri no, no, stranieri no, no. Stranieri no, neri, no, neri, italiani, neri. Neri nemmeno? Se ti dico stranieri no, non li voglio neri. Vabbè, neri qualche da. E come mai non li vuoi neri, scusa? Non li vuole. No, cioè. No. Ma non è questione perché sono neri. E perché? Perché? No, proprio non ci vado i stranieri. Cioè, se non so italiani non ci vai. No. Ma è una cosa incredibile questa qua, cioè solo con gli italiani. Beh, comunque solo italiani, perché gli stranieri sono anche a volte. No, sono andata con un inglese. Sì. Che mi ha chiamato e mi ha detto cioè mi ha scritto un messaggino. Sì. Mandami la via e tutto, metto il navigatore e è venuto a casa mia. Ma dove operi tu? In che zona era operi? Un inglese, a volte gli inglesi qualche stronzi. Sì, qualche volta può succedere, sì. La maggior parte. Ma scusa, ma qua... questo quando ha finito? Sì, che ha fatto? Dato 150 euro, ma quando ha finito mi ringraziava. Grazie. Ecco, amica mia, ma qual è la tua specialità di Mirella la 65enne? Qual è la tua specialità per cui sei più conosciuta? La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Dottore, è andato a mangiare sushi quando si parla di porcherie e lui mangia solo sushi. La specialità di Mirella è lo squirting, amico mio! Ma tu sei contento? Sei contento come se uno avesse vinto un milione di euro alla lotteria di Capodanno. È uguale, stessa contentezza. Amico mio, gli piace, ma chi se ne frega? No, ascolti! Dimmi, Mirella, dimmi. Allora, quando telefono e dico... Io scrivo squirting, rimmi, che cose là. Sì. E tanti non sanno, quando gli dici lo squirting, Cosa pensano? Che pensano? E uno ti mette un dito lì, nella passera, e tu fai lo squirting. Vabbè. È così lo squirting. Beh, no. È un po' più complesso, diciamo, d'accordo, no? D'accordo. Cioè, ci vuole un lavorio, ci vuole un lavorio. Ci vuole il tuo bene, amore. Tu devi partecipare. Quello è il vero squirting. Dottore, è andato a mangiare il moltino primavera, non parla di porcherie. Però io, Millie, è geniale questa cosa qua. La specialità è lo squirting. Andate a quel paese tutti e tre, tutti e due, scusa. No, Mirella, ma perché devi trattare male Mirella? No, che Mirella è una prostituta simpatica di 65 anni che vuole cambiare mestiere, che comunque si adatta ai figli. Mirella, va bene, ho detto andate a quel paese. Mirella, hai figli? Mirella, adesso c'ho i figli io. Ma che ne so, ce l'hai o non ce l'hai sti figli? Ma certo che ce l'ho. Lo sanno? Ma che sei scemo? Non sanno niente? Ma sta scherzando. E dov'è che operi? In giro per l'Italia? O in un posto in posto in particolare? Perché c'è un accento toscano, amica mia. Ma io sono qui in Toscana, Sei in Toscana. Mirella, la Toscana, 65 anni. Mi sono già rapato. Ciao Mirella. Ciao, ciao amica mia, ciao, ti abbraccio. Ciao, ci risentiamo ciao, presto, ciao. Devi raccontarmi qualche tua peripezia, qualche tua avventura, qualche tua avventura. A domani, ragazzi. Invece che fa la colletta per quella puttana, no, che non paga le tasse né niente, fammi una bella colletta per la mia nonna. Dopo facciamo anche la colletta per la puttana. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cattiva! Cattiva! Radio 24. Libera la voglia di fare.